nonostante il conto di ogni mia visita oculistica, la mia vista ancora mastica libri di saggistica. Quando resto in camera, sul letto rifletto su ciò che ho letto. Flaubert scriveva già da ragazzetto. Adesso la massima aspirazione a quest'età è diventare PR per dare invito in città. Felicità? Cosa? Mangiare un panino? Beh, c'è chi non distingue Titanic da Pierino. C'è persino chi fa il figlio del flower. Si batte per i diritti del chihuahua. Aua, aua! Sei deleterio! O agli ossi serio, spegni il cellulare, fa finta di stare in aereo. Questo non mi ascolta, ma è incredibile. Il cervello dell'utente da me chiamato non è al momento raggiungibile. Va, va, stato in disco, non insisto. Oh, va, va, io preferisco un altro posto. Viva, viva, viva, la gente originale che in una mongolfiera velocemente sale. Grida, yeah, le mie speranze non sono buie e non mi faccio male. Viva, viva, viva, la gente positiva è una locomotiva che parte quando arriva. Grida, yeah, le mie speranze non sono buie. Non fumo, non mi drogo, non mi canno, non bevo. A volte penso di essere il vero alternativo, più contorto di un ulivo. Quando penso, scanso lo scarso col piercing e il tattoo sul dorso. Sono, non appaio, mordo, non appaio. Coi soldi che c'ho, più che una coca, piglio due peio. Chiamami Caio, chiamami Tizio, dammi un giudizio. Ma sappi che schizzo come champagne anche a poco prezzo. Altro che grezzo, sono un bravo ragazzo. Educato, posato, creato per essere maritato e trascurato. Perché se no sarei un fighetta di Monte Carlo. Invece ti parlo da Molfetta. Aspetta a criticare se non mi vuoi su questo sample. La mia caparrezza, più di Shirley Temple. Oh misericordia, mi faccio entrare come Gordia. Schivi alternativi, state in guardia. Viva, viva, viva, la gente originale che in una mongolfiera velocemente sale. Grida, yeah, le mie speranze non sono buie e non mi faccio male. Viva, viva, viva, la gente positiva è una locomotiva che parte quando arriva. Grida, yeah, le mie speranze non sono buie. Eppure potrei stare con certi amici miei che ne sanno di canne più di Sanpei. Sai, giammai preferisco uscire con la mia lady. Per la Dilla Buon di questo capir, vedi, vedi come lo dedi, ritorno da lei. Te lo ripeto come un delay. Preferirei serate di passeggiate, io la tipa e il passeggino. Andare al cine, organizzare cene col vicino. Bacino, mi sento vivo, obbediente più che trasgressivo. Primitivo invece che moderno. Non mi specchio come fa il firmamento sull'arno d'argento. Mi piace la gente normale che svolge una vita normale, che ha figli da sfamare, bollette da pagare e non ha manco il tempo per cagare. Viva, viva, viva, la gente originale che in una mongolfiera velocemente sale. Grida, yeah, le mie speranze non sono buie e non mi faccio male. Viva, viva, viva, la gente positiva è una locomotiva che parte quando arriva. Grida, yeah, le mie speranze non sono buie. Viva, viva, viva, la gente originale che in una mongolfiera velocemente sale. Grida, yeah, le mie speranze non sono buie e non mi faccio male. Viva, viva, viva, la gente positiva è una locomotiva che parte quando arriva. Grida, yeah, le mie speranze non sono buie, yeah, yeah.